Sì, dai, iniziamo dalle domande, poi magari andiamo un po' a ruota libera. Sì. Facciamo che sia una chiacchierata, non mi piace di più. Allora, intervista a Demetrio Conte, 13 giugno 2025. Da dove partiamo? Partiamo dall'inizio. Si sviluppa il movimento della Pantera e tu prendi parte al movimento. Che cosa ti ricordi delle motivazioni, di cosa hai pensato tu, di che cosa ti aspettavi? Ma devo dire che è stato un movimento abbastanza inaspettato, perché in realtà era già qualche anno che io frequentavo scienze politiche, avevamo creato un piccolo collettivo dove avevamo già iniziato in qualche modo a denunciare alcune derive aziendaliste, no? Con le varie proposte di riforma, c'era stato tutto il movimento dell'85 che poi ha avuto degli strascichi, e noi già intorno al 87 più o meno avevamo iniziato a provare a creare un collettivo a scienze politiche, a fare delle cose, però ecco, la sensazione era che ormai l'università fosse stata completamente pacificata, la sensazione che avevamo che anche i nostri documenti, che poi rivedendoli anche grazie al lavoro che ti ho fatto in archivio, sembra davvero la preistoria, no? Cioè, si presentassero dei documenti così adesso, cioè, ci tirerebbero dietro, no? Anche solo per come erano presentati graficamente, scritti a mano, ciclostilati, delle robe davvero illeggibili. La corposità. La corposità, no? E forse a posteriori possiamo capire perché le nostre proposte di riflessione non erano così, perché forse già all'epoca c'era un bisogno di comunicare le cose che era differente, noi questo bisogno non l'avevamo evidentemente colto, no? Però ecco, la sensazione era che ci fosse uno sparuto gruppuscolo di studenti molto politicizzati, molto orientati nell'area antagonista, che provavano a denunciare un po' la deriva aziendalista che stava attraversando l'università, e queste istanze cadevano nel vuoto, per cui sicuramente il movimento della Pantera è stato uno shock inaspettato, uno shock ovviamente positivo, indubbiamente positivo, perché ci ha costretto un po' tutti quanti a fare i conti un po' con noi stessi, con le nostre visioni, per cui c'è bisogno a volte di essere turbati, no? di essere scioccati dagli eventi, perché appunto la sensazione è che anche quella argita nostra, che non ci permetteva di dialogare, di comunicare con altri studenti, aveva evidentemente, cioè pur avendo colto alcuni aspetti che poi sono stati ripresi, articolati, sviluppati dentro il movimento, però in quel momento c'era un'incapacità forse nostra nel riuscire a esprimerli, a creare consenso, e forse anche i tempi non erano maturi, mi viene da pensare, no? Forse non è un caso che il movimento della Pantera sia scoppiato nel 90 e non a seguito del movimento dell'85, no? Perché evidentemente molti di quegli studenti che hanno partecipato alle lotte contro la Iervolino, poi ce li siamo trovati all'interno dell'università, e quindi avevano avuto già esperienza di lotta, una presa di coscienza di come stava, di che tipo di deriva stava prendendo tutto il sistema della formazione italiana, scolastico, universitario, insomma. E quindi per me quell'esperienza lì è stata molto interessante, perché ha cambiato completamente tante cose da un punto di vista politico, no? Però così entriamo già troppo nel merito, per cui se dobbiamo rimanere così un po' più in superficie su cosa è stato il momento della Pantera, cioè è stata sicuramente un'esperienza molto interessante, inaspettata, E quell'altra cosa interessante che rilevo come originale è questa, cioè questa dimensione anche fortemente umana, cioè dove la dimensione politica a un certo punto è riuscita a cioè sviluppare, a incrociare anche una dimensione umana, e credo che questa dimensione umana, no, oltre ad esserne un po' una qualità, una caratteristica, ha anche prodotto delle trasformazioni, sia a livello soggettivo che a livello diciamo di movimento. Ecco. Ricordo come questa, come appunto anche lì, a proposito di discorso che dicevamo prima, come la condizione materiale ha portato dei grandi cambiamenti, no? Nelle coscienze, ma erano cambiamenti che avvenivano nelle coscienze, avvenivano nei corpi. Questa cosa è stata per me, io l'ho percepita fortissima, no? E non è un caso che poi quelle trasformazioni che avvengono anche nei corpi poi diventano durature, cioè non sono trasformazioni passeggere, no? Cioè sono trasformazioni che segnano e che in qualche modo poi caratterizzano la nostra esistenza. Ma tu ti ricordi in particolare degli episodi della Pantera, per esempio tutto il periodo che abbiamo passato in occupazione, che poi, come ti dicevo l'altro giorno, a me sembrava così lungo, invece si è scoperto che non è stato poi così lungo, però era vissuto molto intensamente. Esatto, questa cosa della vita intensa lì dentro. C'è stata proprio un'accelerazione per molti di noi che coincideva con la trasformazione di cui parlavi prima. Sì. Però ecco, ci sono dei momenti che ti sono sembrati anche a posteriori più significativi, degli episodi, dei passaggi? Beh, un passaggio sicuramente interessante che ha avuto un potere simbolico ma anche politico è stato appunto l'occupazione della presidenza e l'entrare in possesso del fax. No? Questa cosa, cioè di impossessarsi degli strumenti di comunicazione che non erano dati a noi in quel momento, no? Cioè, perché effettivamente forse qualcuno di noi aveva iniziato ad avere un cellulare, cioè questa diffusione degli strumenti di comunicazione così diffuso come adesso, all'epoca non c'era, no? C'erano ancora, mi ricordo, qualcuno di noi ha iniziato a imparare un po' a usare Word, il computer che c'era lì nella sala. Il cellulare non c'era. C'erano i computer nella saletta. Sì, sì, c'erano i computer. Non sono neanche, non credo che esistessero ancora neanche le mail. No. E quindi lo strumento più rapido di comunicazione in quel momento era proprio il fax. E credo che sia stata un'intuizione geniale, che è nata davvero da qualcosa di prepolitico. Cioè, non è stata una strategia politica, lo so, non è che a tavolino qualcuno ha detto ma dobbiamo impossessarci, è stato proprio un atto, e questa cosa è molto interessante, no? È stato un atto di ribellione e di appropriazione di uno strumento di comunicazione che in quel momento era, come dire, prerogativa solo di chi aveva un certo potere, no? Quindi, ed è stato interessante perché, come dire, da una parte acquisivi potere, dall'altra sottraevi potere. E nello stesso tempo, acquisendo potere, questa acquisizione di potere e di utilizzo di quello strumento ti dava la possibilità di comunicare con il mondo intero, no? E anche questa cosa è stata geniale, no? Cioè, il fatto che all'epoca, se già riuscivamo a comunicare fra scienze politiche e la statale, che era lì a 100 metri da noi, era un grande successo. Poter comunicare con l'Università di Palermo e sapere quasi in tempo reale che cosa stava succedendo a Palermo è stato davvero potentissimo, no? Se tu ci pensi. Quindi quella cosa lì dell'occupazione della presidenza e del riuscire a impossessarsi di quel fax e poi progressivamente di tutti gli altri, è stato secondo me un salto importantissimo, no? È stato un atto di contropotere importantissimo e generativo, sia sul piano simbolico che anche molto, molto materiale, no? E poi anche, cioè, il fatto che si dormisse nella presidenza, no? Se ci pensi, è proprio lo svuotamento del simbolo di potere che aveva quel luogo, cioè è là, in qualche modo lo svilire, no? Del suo potere simbolico, quel luogo, no? Per cui la presidenza come luogo di potere era diventato il dormitorio dove qualcuno anche ci scopava dentro, no? Quindi questa roba qui, cioè, quasi direi situazionista, no? Cioè, è stato un atto anche lì inconsapevolmente rivoluzionario e situazionista. Però ecco, ci sono stati tanti episodi come questo che secondo me hanno qualificato in maniera potente quell'esperienza. E la cosa interessante è che era un'espressione quasi più di una volontà diffusa di ribellione, di riappropriazione, che non un atto frutto di una consapevolezza politica. Cioè, nessuno ha deciso quella roba lì, cioè è stata praticata, no? Quasi a volte precedendo anche alcune letture, alcune scelte tattico-strategiche del movimento, no? Cioè, quasi come a un certo punto, cioè, i soggetti più politicizzati in qualche modo rincorressero anche quello che già qualcun altro aveva messo in atto, no? Almeno io me lo ricordo così, cioè, perché alcune cose io stesso, non so se sta funzionando la mia registrazione, perché io stesso venivo a conoscenza di queste cose e quasi me ne meravigliavo, no? Sì, sta registrando, incredibile. E te ne ricordi altre? Durante la Pantera, e poi ovviamente l'aver trasformato quel luogo di sapere in un luogo che diventava da una parte un luogo di socialità aperto alla città, no? Anche questa cosa è stata potentissima, perché Scienze Politiche era appunto un po' per la sua collocazione, no? Zona San Babila, un po' per la sua frequentazione, era un po' un luogo elitario, no? Cioè, non stiamo parlando ovviamente dell'elite degli anni 60, no? Per carità, però era vissuto dalla città come un po' un luogo a parte, no? E il fatto che quello spazio, anche per le caratteristiche fisiche che aveva, mentre la statale, anche storicamente è stato, perché molte assemblee si facevano lì, eccetera, è sempre stato un luogo più attraversato anche dall'esterno, Scienze Politiche molto meno, era proprio un luogo dove si andava lì a studiare, a dare esami, ok? Dove si facevano convegni per ultra specialistici, no? Di politica internazionale. E invece per la prima volta Scienze Politiche è diventato anche un luogo di socialità, un luogo dove cioè anche il territorio riusciva a entrare, a riappropriarsi di quello spazio e a poterne in qualche modo godere, no? Nello stesso tempo trasformava anche di senso quello spazio, cioè, e per cui il fatto di organizzare feste, eventi aperti a tutti da una parte è stato sicuramente questo atto trasformativo molto interessante, e poi ovviamente anche questa l'altra cosa interessante che è avvenuta, no? è questo bisogno da parte di moltissimi di capire, no? Di capire, di approfondire, per cui tutta la nascita delle varie commissioni, che io ho sempre un po' snobbato, un po' per appunto per un approccio anche mio ideologico, evidentemente. Quindi non avevi fatto parte? Io non ricordo di aver partecipato alle commissioni, no? Infatti c'era anche un senso un po' di estraneità, perché mi ricordo che poi le assemblee erano prevalentemente, soprattutto nella fase iniziale, erano come una rendicontazione, no? Di quello che era stato il lavoro delle commissioni, per cui non facendo parte poi di nessuna di quelle commissioni mi sentivo un po' in quei momenti, paradossalmente il momento assembleare erano forse i momenti in cui mi sentivo più estraneo di altri momenti in cui mi sentivo più interno, perché questa questo rendicontare il lavoro delle commissioni, non partecipandovi, alcune commissioni magari li ascoltavo con interesse per capire un po' che cosa avevano prodotto, altre un po' meno, ecco, per cui no, sulle commissioni, però a posteriori devo dire che ho dovuto anche un po' rileggere, no, questa mia posizione, comprendendone il bisogno, no? Cioè, rispetto al fatto che appunto è ovvio che c'è, cioè, chi come me veniva già da un percorso anche di grande politicizzazione, che aveva già in qualche modo studiato, affrontato, quindi potevo dare per scontato alcune cose, ma giustamente per moltissimi studenti di scienze politiche che per la prima volta partecipavano a un'esperienza di quel tipo, c'era anche il bisogno di comprendere, di studiare, di capire meglio. Quindi, cioè, a posteriori devo dire che anche quella è stata, insomma, un'esperienza molto positiva, no? La nascita delle commissioni come bisogno anche di acquisire un sapere, un controsapere da contrapporre al sapere ufficiale, ecco, mi va di leggerlo un po' in questa ottica. Ma tu sei andato anche a qualche iniziativa nazionale? No, non ho mai partecipato, sono sempre rimasto lì a Milano, perché nel frattempo appunto ero impegnato, politicamente ero già all'interno del Leoncavallo, facevo parte del collettivo dei transiti, quindi non ricordo di aver partecipato a eventi nazionali. Poi, finita l'occupazione, tu hai fatto un bilancio, diciamo, dell'esperienza, non solo a livello personale o a livello milanese, ma anche complessivamente del movimento a livello nazionale? Sì, è stata una valutazione in itinere, ovviamente. Devo dire che la cosa più interessante di quel movimento, che in qualche modo ha anteceduto quello che poi sarà, che accadrà da lì a pochi anni, è stata proprio questa questo interessante processo di contaminazione, no? La cosa, io l'ho vissuta proprio in questi termini, no? Cioè, come forse è stata la prima esperienza, almeno per me, dove effettivamente c'è stata una contaminazione positiva, no? di esperienze, di posizioni politiche, di letture, una contaminazione generativa. E credo che appunto anche lì non sia stato un caso che poi da lì a 10 anni c'è stato il famoso movimento che ha portato alle giornate di Genova. Credo che anche le giornate di Genova, tutto il movimento contro la globalizzazione neocapitalistica, cioè abbia origine comunque da lì, da quell'esperienza lì. Quindi l'esperienza della Pantera è stata sicuramente, come dire, generativa, perché ha alimentato una nuova generazione di coscienze, di saperi, di competenze, di prospettive anche, no? Di lettura, di forme di lotta. No? La cosa interessante, appunto, ma no, niente, questo, cioè, questa capacità generativa nell'incontro delle diversità, cioè per la prima volta in realtà c'è la parola, c'è questo slogan, la diversità è ricchezza, non era uno slogan, cioè per la prima volta io ho vissuto materialmente, no? A livello anche proprio di corpo, cioè come la diversità diventava una ricchezza, e non una ricchezza per sommatoria, no? Ma una ricchezza moltiplicatrice, no? Perché era generativa a sua volta di di tante altre cose, no? Era trasformativa a livello soggettivo, a livello di gruppo, a livello di movimento, a livello... quindi infatti, se ricordi, era già finita la Pantera e io mi ricordo questa scena dove eravamo io e te sotto i portici, no? Ed eravamo lì che stavamo riflettendo, ragionando e mi ricordo esattamente che a un certo punto ti dissi: guarda Alberto, secondo me anche alla luce di quello che era stato l'esperienza della Pantera, ma credo che nascesse da lì questa mia convinzione, no? Ti dissi: guarda, io credo che il movimento del futuro sarà un movimento che vedrà diverse anime che riusciranno a comunicare, a mettersi insieme, che vanno da un certo cattolicesimo progressista critico all'esperienza di movimento, ai compagni, all'epoca c'era ancora la Democrazia Proletaria, no? Dei compagni DP con il movimento antagonista, l'area dell'autonomia, eccetera, eccetera. E questa cosa poi effettivamente è avvenuta, no? Con Genova, se ci pensi. Con Genova è successo esattamente questa cosa qui, che da Pax Christi alle Acli fino ad arrivare al Centro Sociale Pedro, cioè, si è costruito insieme un percorso che metteva in discussione quel sistema che stava dominando e distruggendo non solo la Terra ma l'umanità intera, no? Quindi questa cosa io credo che in realtà abbia avuto, però sì, secondo me ha avuto origine lì, cioè nell'esperienza della Pantera si sono generati, puoi dire, quel DNA, è stato generato quel DNA che poi ha portato a quell'esperienza lì. Vabbè, finita la Pantera, noi Scienze Politiche diamo vita a un collettivo, sì. Di cui hai fatto parte. Sì. E anche lì, ti ricordi dei momenti significativi dell'attività svolta da CPU? Ti ricordi anche lì dei passaggi, degli episodi che ritieni di particolare importanza? Prima dell'occupazione dell'aoletta, noi già nella fase discendente del movimento, se ricordi, avevamo occupato l'aula magna, no? Abbiamo mantenuto solo l'aula magna, l'aula 1, quella che era l'aula 1, sì. Che per noi era la nostra aula magna sostanzialmente. E quindi, e dopo l'aula 1 ci eravamo spostati nello spazio adiacente, no? Sì. Per poi arrivare a occupare la saletta che sarà, diciamo, la sede più o meno definitiva del CPU per lunghi anni. Credo che, da quello che ho capito, che poi è rimasta quella la sede ancora. L'ultimo documento che noi abbiamo nell'archivio risale al 2006. 2006. Quindi probabilmente hanno lasciato l'aula in quell'anno lì. Io ci sono rimasto nel CPU, credo, fino al 93, più o meno, 93-94 massimo, 93, sì. L'esperienza del CPU, anche lì, ho trovato l'esperienza del CPU interessante perché era comunque espressione di questa cosa che ti ho raccontato dal mio punto di vista, no? Di questo incontro di diversità che sono riuscito in qualche modo a trovare un linguaggio comune, una prospettiva comune. La cosa interessante è, puoi dire, vedere giovanissime compagne e compagni che non avevano mai avuto esperienze politiche, no? Che anzi magari venivano fuori da storie tutto sommato anche molto moderate, no? E invece acquisire una radicalità, no? Del loro pensiero, della loro prospettiva politica, che era assolutamente trovo interessante, no? Se tu pensi a una compagna come Paola, no? Cioè, si possono dire, si possono fare i nomi? Paola è stata anche intervistata, quindi okay. Un'altra che mi viene in mente, come ho visto l'altra sera, è Valentina. Valentina. Pure lei arrivava da un'esperienza cattolica, no? Cioè tutte queste compagne che poi hanno assunto appunto delle posizioni estremamente radicali, che arrivavano da posizioni estremamente moderate, no? E anche lì proprio è stato interessante, ed secondo me sono le compagne che maggiormente hanno rappresentato quella trasformazione lì, no? Cioè dove appunto anche lì una dimensione di vissuto quotidiano che attraversa i corpi, attraversa le menti, i corpi, perché fai esperienza concreta, cioè non era il classico collettivo, no? Cioè le pippe mentali, no? Sulla rivoluzione o sulla critica per l'elezione di questo o quest'altro, ma sono state proprio esperienze molto concrete e materiali che hanno portato ad assumere una radicalità, no? del proprio pensiero, della propria visione politica, esistenziale. Questa cosa qui è stata molto interessante e quindi in qualche modo gioco forza, cioè quando, no? Cioè se tu vedi una compagna come appunto Valentina e Paola che cambiano così, cioè come fai a non cambiare anche tu? No? Cioè, ma non, cioè senti, come dire, il bisogno di metterti in discussione, no? Senti il bisogno di interrogarti un po' anche sui tuoi limiti, le tue difficoltà, sulle tue rigidità, no? Per cui da questo punto di vista è stata un'esperienza radicale da tutti i punti di vista, anche generativa, per me è stata molto generativa sicuramente. Quindi no, rispetto al CPU, ecco, a un certo punto la mia sensazione è che però si è un po' persa, no? questa capacità di cogliere questa ricchezza nel riuscire a dialogare nella diversità. Cioè a un certo punto non so cosa sia successo, ho sentito che alcune posizioni si sono progressivamente distanziate e irrigidite. Io ho sentito molto questa cosa, soprattutto nei miei confronti sicuramente c'è stata molto. Questa cosa l'ho vissuta molto male, più dal punto di vista umano che politico, devo dire. Perché era, come dire, era l'antitesi di quella genesi, no? E nello stesso tempo anche il requiem di quell'esperienza, l'ho vissuto un po' così. No? Sai, alla fine era proprio per i motivi che dicevi tu prima, era un gruppo politico, ma anche un gruppo di amici, no? C'erano stretti rapporti di amicizia abbastanza forti e quindi era inevitabile quello che stavi dicendo, cioè che delle tensioni politiche che poi per motivi anche, insomma, che io non saprei bene individuare, si erano manifestate, avessero poi delle conseguenze anche sui rapporti di amicizia, che è quello che poi è successo. Sì, ma a volte hanno comunque continuato a coesistere dei rapporti di amicizia nonostante una certa presa di posizione rigida da un punto di vista politico, no? Però appunto è stata questa cesura più politica che poi ha avuto anche delle ricadute anche sul piano personale, relazionale, indubbiamente, no? Ma c'è stato qualche cosa che a un certo punto si è rotto e non si è rotto sul piano appunto personale, almeno credo, spero che le cause non siano state queste, forse non me ne sono accorto, non lo so, però cioè, la mia sensazione è stata che a un certo punto, cioè, è come se quel germe della, quel virus della, dell'ideologia, no? Cioè quando dico di ideologia intendo proprio, cioè, questa visione per cui la mia visione, la mia lettura è più giusta della tua, no? è più valida della tua, e quindi non solo la ritengo più valida, ma ritengo che la tua sia una cagata, una stronzata, la svilisco, non la rispetto, ci può stare, no? Cioè, non è che dobbiamo essere dei preti, no? Ci può stare che io possa pensare, ma no, io credo che la mia visione è importante, ha un suo fondamento, però che io possa comunque poter dialogare con la tua visione e non pensare che per affermare la mia visione debba distruggere la tua, anche attaccandoti personalmente, no? Questa cosa l'ho vissuta molto negativamente, devo dire. È stato proprio un effetto della deriva, ma secondo me era, come dire, anche un indicatore del fatto che il movimento si stava ormai completamente disgregando, no? Perché quando diventa per te prioritario attaccare il tuo compagno invece di attaccare il tuo nemico, qualche domanda dobbiamo farcela, no? Però ecco, prima di questo momento di crisi, secondo te più ha prodotto qualcosa di significativo all'interno della facoltà, e se sì, che cosa? Cioè, qual è il lascito più significativo? No, ma io credo che CPO è stata un'esperienza importantissima per Scienze Politiche. Noi siamo entrati a Scienze Politiche in un momento in cui l'università e Scienze Politiche in particolare, nonostante avesse anche essa una storia, no, precedente, era stata completamente normalizzata. Cioè, grazie alla Pantera, al CPU, cioè, vuol dire, si è sviluppato una cultura politica critica dell'esistente e di che cosa rappresentava l'università in quel momento. Quindi la presenza del CPU a Scienze Politiche è stata sicuramente un'esperienza molto positiva, al di là poi delle derive finali, molto positiva, molto generativa. Io credo che in tantissimi abbiano in qualche modo fruito di quell'esperienza, più di quanto noi stessi forse ce lo immaginiamo, no? Cioè, come se quello che abbiamo fatto ha in qualche modo determinato un cambiamento nella visione di ciascuno, no? Cioè, nel modo in cui ciascuno entrava in quella università, in quella facoltà, nel modo in cui ciascuno interpretava il suo essere studente universitario, essere soggetto più o meno attivo all'interno dell'università e della società in generale, no? Quindi secondo me l'esperienza CPU è stata un'esperienza sicuramente molto importante da questo punto di vista. A questo proposito, ci sono stati dei momenti anche, mi ricordo uno dei momenti apicali del CPU, apicali perché hanno fatto anche in qualche modo storia, e quando abbiamo impedito ai fascisti di fare il volantinaggio lì davanti, dove per la prima volta credo la polizia ha caricato dentro la facoltà. Credo che non sia mai successo una roba del genere, no? E dove lì, appunto, per credo un paio d'ore è successo il delirio più totale. Quello lo ricordo con un sentimento ambivalente, perché abbiamo anche rischiato tanto. Sono state delle cose in quella vicenda lì pericolosissime, però allo stesso tempo, a posteriori, siccome è andata bene, possiamo dire che abbiamo un ricordo anche positivo di quella roba lì, no? Non so se ricordi l'estintore lanciato dal secondo piano, ecco. Però secondo me questo era prima, sai? Era prima del 90. No, è stato dopo. Te l'ho quasi detto. Sì. C'era un altro episodio, adesso mi è sfuggito. L'altra cosa bella che abbiamo fatto, secondo me interessante, è quando abbiamo appunto inchiodato le porte di alcuni docenti, no? Anche quella cosa lì è potente da un punto di vista comunicativo, ha espresso anche una certa radicalità, anche un modo di porsi alla pari in qualche modo, nei termini di un confronto di potere, confronto scontro di potere, cioè arrivare a chiudere l'ufficio di Melucci piuttosto che di altri, adesso non mi ricordo quanti l'abbiamo chiuso, no? Però è stato un atto potente da un punto di vista simbolico, perché credo che abbia anche lì sia stato interessante per le ricadute che ha avuto anche al di fuori del nostro gruppo, no? Perché poi quella roba lì ha avuto, se ne è parlato, mi dice che forse qualcuno lo rammentava ancora fino a poco fa, no? Quindi vuol dire che quella roba lì è stata forte, no? Vabbè, va bene, bene. Grazie a te. Allora,